In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Il Falco e il Gabbiano presenta... Chuck si vola, di Enrico Ruggeri. Johnny Stecchino. Questa potrebbe essere semplicemente una storia d'amore, ma le storie d'amore sono proverbialmente complicate, anzi, generalmente più sono complicate più sono belle, e la vita non fa altro che complicarle, le storie d'amore. C'è un uomo che incontra una donna, se ne innamora, la segue per poterla fare sua, lei che sembra ricambiarlo, ma in realtà lo tiene sulla corda, le donne lo fanno, non si concede, lo stuzzica, gli fa gli occhi dolci, ogni tanto diventa languida, ma niente di più. Insomma, e potrebbe essere una storia come tante, donna che fa la preziosa per attirare tra le sue reti un uomo innamorato. Non è così, questa è una vicenda molto più complicata. C'è di mezzo l'inganno, la corruzione dei politici, la droga, c'è anche un omicidio e c'è il più grande problema di Palermo, una vera e propria piaga. Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura ma l'uomo. Dov'è? È nella tezza, è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci fa nemici, famiglia contro famiglia. Prima di cominciare però dobbiamo fare una premessa che è fondamentale per il nostro racconto. C'è una leggenda molto diffusa in Oriente secondo la quale al mondo ognuno di noi avrebbe almeno 7 persone identiche, dei veri e propri sosia. Non sarebbe solo una stranezza statistica, qualcosa di più. Esisterebbe una connessione di vario tipo tra noi e i nostri doppi, esisterebbe un legame emotivo di cui noi non siamo consapevoli. Insomma, le nostre vite, i nostri sentimenti sarebbero legati a queste 7 esistenze sparse per il pianeta. È una teoria, insomma, un po' improbabile in questi termini, ma molto affascinante. Noi, insomma, viviamo una vita intera senza conoscere gli altri nostri 7 io. Pensate cosa capiterebbe se domani magari uno entrasse in un ascensore e si trovasse di fronte a una copia esatta di sé, è uguale in tutto per tutto, almeno fisicamente. Beh, è proprio il caso della nostra storia di oggi, quella di Dante Ceccarini e del suo doppio Johnny Stecchino. Dante è un autista di autobus per disabili, vive da solo a Firenze, è un ingenuo, molto ingenuo, siamo al limite dello sprovveduto, è uno di quelli che magari quasi non si accorgono di quello che capita attorno a loro, è un uomo solo, di una solitudine però non particolarmente dolorosa, lui ci ha abituato, non è tormentato da questa sua condizione, è il classico uomo che non noti quando lo incroci per strada, per le donne, poi insomma le donne poi sono ancora più spietate, e quindi è come se lui fosse invisibile, come se fosse trasparente. Lui naturalmente vorrebbe una compagna, vorrebbe una storia d'amore, cerca di continuo di conquistare rappresentante del sesso opposto, ma allora non si accorgono neanche della sua esistenza. Bene, tutto per lui cambierà in una fresca serata di primavera, quando dopo essere stato a una festa rischierà di essere travolto in strada da una macchina. All'uscita da questa festa, Dante incappa in un cane randagio che è in mezzo alla strada. Lui si ferma per accarezzarlo, arriva un'auto a tutta velocità, sta per investirlo, lui con un guizzo riesce a scansarsi, non subisce danni, ma quello però è uno di quei momenti che ti cambiano la vita. Santa Cleopatra! Si è fatto male? No, niente, grazie. È sicuro? Tutto a posto? Sì, tutto bene, bene. Meno male. Mi scusi tanto, è tutta colpa mia, stavo per ammazzarla. Alla guida dell'auto c'è una donna, è molto elegante, piuttosto attraente, quantomeno per lui è bellissima. La macchina fa fatica a riavviarsi, Dante è una persona gentile, dà una mano a questa bella donna, la strada è buia, poco illuminata, la donna a un certo punto lo guarda, anche se solo un attimo prima di risalire in auto. Appena i suoi occhi si abituano all'oscurità, riesce finalmente a vedere il viso di Dante, succede qualcosa di imprevisto, perché lei si paralizza, è come se fosse stata colpita da un fulmine, sembra estasiata. Come si chiama lei? Dante. Dove abita? Qui, al condominio. È meraviglioso. La donna riesce solo a dire quelle poche parole, colta da una fortissima e direi inspiegabile emozione, sviene. Dante la sostiene, poi l'appoggia sul marciapiede, corre verso casa, chiama un'ambulanza. Pochi attimi dopo sente invece l'auto della donna sgommare e andare via a tutta velocità. Dante rimane sconvolto, attonito, non ha capito cosa sia successo. Il giorno dopo cerca di tornare alla sua vita di sempre, ma lui ha questo ricordo di questa donna, delle sue parole, della sua misteriosa scomparsa, tutto gli rigira nella testa, insomma, si sta innamorando. Come vi ho già detto, Dante è autista di una scuola bus per ragazzi con la sindrome di Down. Il giorno dopo questo incontro torna al lavoro, si confida con uno dei ragazzi che è anche il suo unico amico, si chiama Lillo, è un ragazzo Down particolare, molto simpatico. E lo sa che è successo? Si è fermata, m'ha guardato Lillo, m'ha guardato, m'ha guardato così, mi si è avvicinata e m'ha detto sei meraviglioso a me, e blum, è caduta ai miei piedi. Ha fatto amore? No. No, è svenuta, ma guarda che era proprio la donna più bella, m'ha guardato come se io Lillo fossi l'uomo più bello del mondo. Una donna intelligente, una donna di gusto, molto raffinata, e a un certo punto poi mi si è riavvicinata come se mi volesse baciare, m'ha quasi toccato, m'ha detto, lei è un sogno a me. E io sono tutto scombussolato, Lillo, oh no! Ci sono un altro paio di cose che vanno dette del nostro protagonista Dante, è perché nella sua grande ingenuità lui comunque è capace di qualche piccola grande furbizia, per esempio ha il vizio di prendersi gioco dei fruttivendoli, ruba le banane da prestigiatore, distrae il negoziante chiedendogli i prezzi della merce e poi infila le banane con grande destrezza, spettacolare direi, infila le banane nelle maniche della giacca. Poi c'è invece il suo peccato più grande, perché lui ha avuto un piccolo incidente sul lavoro che in realtà non gli ha procurato nessun danno fisico e invece ha finto di aver preso un colpo così duro da avere subito una conseguenza permanente, un tremito violento del braccio e della mano destra, per truffare l'assicurazione, per garantirsi una rendita supplementare. E ovviamente lui sta benissimo, ma questo tremito diventa il suo incubo, perché in realtà lui ha alle calcagna questo agente dell'assicurazione, il signor Randazzo, che ogni tanto va a casa sua per controllare. L'assegno mensile continua ad arrivare? Sì, quello assegno mi arriva, sì. Tra un mesetto deve passare un altro controllo medico, sa? Un altro? L'ho fatto 15 giorni fa il controllo medico. Abbi pazienza, deve ammettere che il suo caso è un po' singolare, un po' strano, viaggiando con un camion. No, parcheggiato, col mio camioncino. Tirai il freno a mano, con questa mano qua, quando lo potevo tirare il freno a mano, e parcheggiai. Ero lì tranquillo, quasi per addormentarmi, pum! Ma arriva una botta di dietro, ma tremenda! Ho sbattuto la testa nel vetro davanti e sono svenuto. E mi sono svegliato così. Sulla testa non ci capisce niente nessuno, dottor Randazzo. Anzi, mi è andata bene. C'è gente rimane cieca, sorda, paralizzata. Hai capito? E mi dovreste dare di più! Mi sono rovinato, anzi, non posso fare più niente, né mangiare, leggere, scrivere. Posso fare solo lo zabaione. Ma torniamo al cuore della nostra storia, cioè alla scintilla che è scoccata tra Dante e questa donna misteriosa. È il momento di un nuovo incontro. Dante la va a cercare nell'hotel dove lei ha detto di alloggiare quando si sono visti, quando si sono sfiorati, direi, e scopre che si chiama Maria, mentre lei in realtà lo chiama Johnny. Non solo, cominciano a passare del tempo assieme e Maria piano piano gli cambia look, gli compra un abito elegante, poi gli disegna un neo sulla faccia, poi gli mette in bocca uno stuzzicadenti e lui naturalmente la lascia fare, farebbe di tutto per piacerle, ma lei è come se avesse un'idea precisa dell'aspetto che Dante deve avere. Lui non crede quasi alle attenzioni di Maria, quindi ripeto, è un burattino nelle sue mani. Poi a un certo punto Maria scompare di nuovo e Dante torna ai suoi giorni di tristezza. Poi una telefonata gli fa tornare il sorriso, è Maria che lo invita a raggiungerla a Palermo. Lui non ci pensa neanche un istante e parte. La domanda sorge spontanea: perché una donna così raffinata, così attraente come Maria si interessa a un personaggio minore, a un personaggio improbabile come Dante? La risposta arriva proprio a Palermo, dove il nostro ingenuo protagonista è arrivato su invito di Maria. Naturalmente il mistero si scioglie per tutti, ma non per lui. Maria lo riceve in una bellissima villa patrizia alle porte della città. In realtà il presunto innamoramento della donna è solo una sceneggiata. La verità è che Dante assomiglia in modo impressionante al marito, che è un mafioso pentito, Johnny Stecchino, è un assassino che si nasconde in cantina per evitare la vendetta dei suoi ex complici, perché lui poi si è pentito e quindi li ha messi nei guai. E tutti lo cercano per fargli la pelle. Johnny, hai visto il miracolo? L'ho visto. Non mi somiglia per niente. Dai, vieni a guardare, fa impressione. Vieni a guardare. Effettivamente, qualche cosina qua e là. Solamente c'è una faccia da fesso. È insignificante. È insusso. Ma veramente tu mi vedi così? Oh no, tesoro, io lo so che sei diverso, ma Cozzamara penserà che sei tu. Cozzamara. Cozzamara, il primo nemico di Johnny Stecchino, il mafioso che più di tutti vorrebbe vedere Stecchino morto. E non solo, perché Cozzamara è il primo nome che Johnny ha fatto ai carabinieri da quando si è pentito, c'è anche un'altra questione tra i due. Quella volta che ho fatto muore Giacomo Melina, da farci andare qua, no, te dico. Andai a far fuori, c'avevo la mitraglietta, la F-44, la F-44 c'ha la raffica un po' anche. Non si controlla, beh, lo sai, ho sparato a Giacomo Melina, ho preso pure la moglie di Cozzamara, per errore. Poi gli ho telefonato subito, per fatto, gli telefonai subito, ricordate, Cozzamara, scusa, 10 minuti fa circa ho ammazzato la moglie, abbi pazienza, scusa, gli ho detto scusa. Sei incazzato, ha fatto tutta una storia, è troppo per maloso, e così non si può lavorare, no, e che sarà mai? E che, gli ho ammazzato la moglie, nemmeno forse sua madre. Insomma, il piano è molto preciso: mandare in giro per Palermo Dante in modo da farlo intercettare e uccidere dai sicari di Cozzamara. Così tutti sarebbero convinti della morte di Stecchino, il mafioso potrebbe spatriare godendosi le sue ricchezze che ha accumulato in anni di malavita. Però non sempre le ciambelle riescono col buco. Questa storia andrà in modo molto diverso, perché Maria non ha fatto i conti con l'ingenuità di Dante, o forse ha fatto i conti con la sua ingenuità, ma non certo con la sua totale imprevedibilità. Chuck si vola. Johnny Stecchino. Stiamo stiamo raccontando Dante, un autista di scuola bus fiorentino. Stiamo raccontando anche però del suo pericoloso doppio, il suo sosia, il mafioso pentito Johnny Stecchino, con una moglie bella e perfida che ha escogitato un piano che è basato sulla incredibile somiglianza tra i due uomini. Piano che prevede la morte di Dante al posto di Johnny per poter placare la sete di vendetta delle cosche mafiose capitanate dal terribile Cozza Mara. E in mezzo però ci sta aspettando una serie di equivoci che renderanno questa vicenda veramente perfetta per una commedia di Molière. Intanto bisogna dire ovviamente che Dante e Johnny sono identici dal punto di vista estetico, ma diametralmente opposti come carattere. Dante è ingenuo, ottimista, d'animo buono. Il secondo è il mafioso Johnny Stecchino, è un assassino senza scrupoli, è un egoista, ha i modi molto bruschi. Dante è sinceramente innamorato di Maria, Johnny la tratta con durezza, è totalmente anaffettivo, è violento, è un uomo all'antica, la disprezza, la tratta come una serva, e questa differenza peserà poi nel corso della nostra storia. In realtà l'unica donna nel cuore di Johnny Stecchino è sua madre, la madre che lo paralizza al solo nominarla. Il piano di Maria comunque è quello, l'abbiamo detto: Dante deve morire al posto di Johnny, così che i mafiosi si illudano di avere chiuso i loro conti, di aver fatto fuori il traditore, il tutto per poter scappare in Sud America lei e il marito. Non rimane che attuare il programma, cioè mandare Johnny in giro per la città. Non dimmi che sono pazzo, che sono scemo. Ho visto Johnny Stecchino. Ma tu sei scemo, dove? Là dietro. Minchia, non è possibile. Ma come? Quello è super protetto, carabinieri, polizia, esercito, nessuno lo trova. E invece questo stronzo se ne va in giro per la città tranquillo e beato. Chiamano a Cozza Mara. Un chiamava a nord. Lo sai che ti dico? Gli facciamo un regalo noi. E lo portiamo bello impacchettato. Ma sei sicuro che io? Ti dico di sì. Tu sei pazzo. Un sogno pazzo, che fa un cecchino? E adesso te lo faccio vedere in faccia. Volevo sapere il prezzo, per esempio, vedi, quanto costano, no? Quelle cipolle là. Johnny! No! I sicari non riescono a ucciderlo. Dante, per salvarsi, corre nella caserma dei carabinieri, convinto che a tentare di ammazzarlo siano stati i parenti dell'ortolano al quale stava cercando di rubare una banana nel momento dell'agguato dei mafiosi. Il primo tentativo, insomma, va a vuoto. Questo non scoraggia Maria, che vuole salvare il suo Johnny, e per salvare il suo Johnny Dante deve morire. E allora lo porta Dante in un posto dove possano vederlo tutti, cioè a teatro. In questo modo non avrà scampo, ma ancora una volta lei non ha fatto i conti con Dante, con la sua imprevedibilità. A teatro lo riconoscono tutti, cioè tutti pensano di avere davanti Johnny Stecchino, e per Dante la situazione diventa ancora più pericolosa. Anche questa volta Dante riesce a uscire senza danni, fugge dal teatro e lo sta aspettando un altro momento cruciale, che lui vive, diciamo, al posto del suo doppio. C'è un ministro della Repubblica corrotto, colluso, col quale il mafioso per anni aveva fatto affari sporchi. Insomma, questo ministro lo vuole incontrare, vuole tranquillizzarsi in qualche modo, vuole essere rassicurato del fatto che Johnny Stecchino non farà il suo nome nel processo che si svolgerà di lì a poco. E Dante si trova faccia a faccia con il politico che è zoppo da tanti anni, che è un dettaglio non secondario. Vi ricordate che Dante da anni sta truffando l'assicurazione, fingendo la sua disabilità alla mano destra? Dante è convinto che l'argomento centrale del suo incontro col ministro sia proprio la truffa di entrambi. L'ho fatta chiamare d'urgenza, ma era necessario. Lei ormai è incastrato. Del resto, anch'io temo ogni giorno di essere scoperto. Come? Con lei posso parlare liberamente. Siamo nella stessa barca. anch'io. Sono 20 anni che fingo. Ma 20 anni? E non se ne è mai accorto nessuno. Bravissimo. Diamoci una mano, siamo nella stessa barca. Io la posso far uscire da questo impiccio nel modo più sottile, nel modo più elegante. Ma lei deve promettermi che non farà il mio nome. Quando? Al processo. E a questo punto lei mi deve dare la sua assicurazione. La mia assicurazione? Certo. Ma scusi, se io gli do la mia assicurazione, no? Se lei mi dà la sua assicurazione, io le do la mia assicurazione. Insomma, si stanno addensando nubi minacciose sul futuro di Dante. Lui sta rischiando la vita, non lo ha capito, però qualcosa sta cambiando, perché il suo animo gentile forse sta facendo breccia nel cuore della persona che ha costruito la trappola mortale, cioè di Maria, perché lui con lei è gentile, è dolce, è rispettoso. La donna che è abituata ai modi volgari, bruschi, freddi di Johnny forse sta cambiando idea. Chuck si vola. Johnny Stecchino. È il momento della resa dei conti. Maria incontra Cozzamara, il nemico giurato di Johnny, e ancora non si capisce se sta vendendo la sua vittima ignara, cioè se sta vendendo Dante, o se sta vendendo il marito colpevole di non amarla come lei vorrebbe. È un sollievo per me, signora. Non le nego che ne sarebbe potuto andare di mezzo anche lei e mi sarebbe dispiaciuto. Qualcuno, come lei sa, non ha scrupoli ad ammazzare le mogli, ma non io, Filippo Cozzamara. Questa decisione che lei ha preso, signora, le fa onore. Non se ne deve vergognare. Posso fare qualcos'altro per lei? L'unica cosa vorrei che non soffrisse. Mi creda, signora, quando si spara in faccia si muore subito. È la morte più bella. Bene, allora dal barbiere. Ah sì, me lo porti dal barbiere. Ci siamo. Maria accompagna Dante dal barbiere e a attenderlo ci sono proprio gli uomini di Cozzamara. Lei torna a prendere Johnny alla villa. Il piano è partire per il Sud America quel giorno stesso. Forse è proprio in quel tragitto in taxi che Maria cambia idea, o forse non ha mai avuto intenzione di sacrificare Dante. Il taxi si ferma per una sosta imprevista a una stazione di servizio. Ehi tu, ma dove vai? Ma che stai facendo? Scusarsi, ma mi stava per finire la benzina. Questione di un attimo. Che testa da minchia questo tassista, la benzina. Ma non ci poteva pensare prima. Amore, essere nervoso. Ah. Abbiamo tempo, siamo quasi arrivati all'aeroporto. Ah. Oh sì, Maria, ti prego raggiungimi subito, perché ho una voglia. Sì, amore. Oh. Maria! Ancora con questi baci! Maria, ma quando imparerai a comportarti da uomo? Oh? E poi sempre con questo rossetto! Ora mi tocca andare a lavarmi, sei contenta? E nel bagno della stazione di servizio si compie il destino di Johnny Stecchino. Lo aspettano i sicari di Cozzamara. Maria sta mangiando tranquillamente un panino al bar mentre i sicari uccidono Johnny. La donna adesso è libera e ricca, la vita di Dante è salva. Per Dante è un lieto fine, non rischia più la vita. Il paradosso è che però lui di questo rischio non si è mai accorto, non è mai stato consapevole del pericolo nel quale aveva vissuto. Bella femmina. Sì, Johnny si vantava che gli era sempre stata fedele. È la prima volta che l'ha tradito. Ma di quel fesso che gli somiglia, che ne facciamo? Senza di quel fesso, come dici tu, Johnny Stecchino non sarebbe venuto allo scoperto. È incredibile che scherzi che può fare la natura. È proprio identico. Devo ammettere che se la signora non avesse deciso così, ci sarei cascato anch'io. Sì, ma che ne facciamo? E se lo riprenderà la signora? l'inganno è finito, la sceneggiata di Johnny Stecchino non ha più ragione di esistere. Maria e Dante prendono sì un aereo, ma non un aereo diretto in Sud America per il nostro protagonista. Per Dante non c'è dietro all'angolo una vita nuova con la donna che ha rischiato di farlo ammazzare. Maria in realtà ha fatto dei piani per il suo futuro, ma questi piani non contemplano la presenza di questo ingenuo autista di scuola bus. Forse Dante non è mai stato contemplato come parte integrante del futuro di Maria. Lei lo riporta a Firenze, fin sotto casa, e gli dice addio. Ma proprio neanche un secondo. Dai, il tempo di pigliarsi un caffè, te ne vai. Mica ti ho detto di restare un mese. Un caffè, un secondo, uno. No, te l'ho detto, devo ripartire subito. Scusa, Dante. Dante? Ma come Dante? Ma non sono più i tuoi giorni. Vieni qua. Sì. Così sei più bello, Dante. Ma infatti anche a me non è che mi piaceva troppo, sinceramente, lo facevo feste. Guarda chi c'è. Sì, lo so, l'ho visto. Vengo, vengo. Maria. Io vado. No, Maria, la pipì. Vuoi salire a fare la pipì? Io vado, ciao. Maria se n'è andata, Dante rientra nella sua vita di sempre, vita solitaria, direi ignara di quello che si muove sotto la superficie, torna al suo lavoro, torna al suo amico Lillo, ricorda con lui quella parentesi palermitana e la ricorda come un'avventura fantastica. E Palermo, devi vedere com'è bella la città, i palermitani proprio si divertono, giocarelloni, zuzzurelloni, proprio gente simpatica, capito? Ti vogliono bene, ti fanno... Ah, l'unica cosa però, Lillo, mi dimenticavo, se vai a Palermo non toccare le banane, lasciale perdere, non le mangiare, hai capito? Perché sono permalosi, ci tengono, ti sparano, proprio ti ammazzano per una banana, Tutto torna come prima, Dante vivrà sicuramente con la speranza di rivedere un giorno la sua amata Maria, ritorna alla sua vita, è inconsapevole di avere vissuto in un romanzo di Pirandello, cioè di avere vissuto due vite contemporaneamente, la sua e quella del suo doppio, il terribile mafioso Johnny Stecchino. E in fondo forse non rendersi conto dei problemi è un modo paradossale per superarli. Ciao, a domani, e se vedete sul nostro sito la foto di uno col pizzetto non mi somiglia per niente. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. La sicurezza è Volvo. La tecnologia è Volvo. Il prezzo è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 30 novembre con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Viaggia senza limiti. Ora puoi. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.